the mystery man came over and he said, I'm on a sign. Chickens eat crap. Cappa, quello che ci manca è una sana fiducia episcopale. Fiducia episcopale. Episcopale. Senza fiducia non c'è possibilità episcopale. Se siamo già così sfiduciati, non saremo mai più episcopali. Ma non è una questione di sfiducia o di fiducia, Drago. Io la volontà ce la metto tutta. Il fatto è che non succede niente. In che senso non succede niente? Mi manca la scintilla. Cioè, ci manca la scintilla. Che anche tu non è che sei tanto messo bene, Capisco cosa vuol dire. Sarà la paroxetina che si respira nell'aria. Oppure sarà che a furia di stare in mezzo ai polli e di dialogare con loro abbiamo perso la nostra umanità, Drago. Noi ci stiamo davvero pollizzando. Ma che sciocchezze. Appunto. E allora perché muovi il collo come Totò? Ma chi? Tu. Muovo il collo come Totò? Sì, come Totò. Ciccio pasticcio? Sì, quella roba lì, ciccio pasticcio. Non mi è mai piaciuto, Totò. Drago! Ma cos'è? Drago! Ma... sono Dio! Oddio! No, sono Dio! Io dicevo così per dire. Ho sentito bene quello che hai detto? Dipende a cosa si riferisce, perché lei mi sa che ha sentito tutto quello che ho detto nella mia vita, quindi sa come... Hai davvero detto che non ti piace Totò? Sì. Ma ti rendi conto che non si può dire? Ma in che senso non si può dire? Non mi piace Totò, non mi piace Peppino, non mi piace un sacco di altra gente. Anna Magnani, Fellini... Come osi, tu, piccola pecorella? Queste cose non si possono dire. Poi non mi piace Andrea Pazienza, non mi piace Paolo Conte, Roberto Benigni. Aia, aia! Fermo, ma non sono mica il signor... Vera, dai! Drago, sei pietoso e in più sei un noiosissimo bastian contrario. Ti meriti tutte le punizioni di questo mondo. Vabbè, non ti piacciono quegli giusto. Artisti che tutto il mondo ci invidia, lo sai perché? Perché sei un bastian contrario. Tu ti vai a scegliere la gente sconosciuta, di nicchia, solo per il gusto di sentirti diverso. Anzi, per sentirti un diverso. Forse, sì. Un diverso, perché no? La fabbrica di polli. Allora... questa è Godzilla dei Blue Oyster Cult dall'album Spectres del 1977. Oh no, there goes Tokyo, go go Godzilla. You are the cattle and we are the keepers. Drago, però stiamo trascurando una cosa importante, scusa. Solo una, secondo te? Vabbè, però lo sciamano di Unghiuta. Ma sarà arrivato o no? Nelle puntate precedenti, le truppe di mercenari belgi guidate dal colonnello Unghiute hanno invaso la fabbrica. Per le trattative di pace con l'amministratore delegato, Unghiute ha chiesto l'intervento del proprio sciamano personale da Kinshasa. Ah, lo sciamano di Unghiute, avevo dimenticato di dirtelo. Cosa? Ho sentito dire che lui, lo sciamano, mentre era in volo, ha mangiato l'equipaggio dell'aereo. È tutto intero. L'aereo è precipitato. E lui è morto. È morto. Che cosa succederà adesso? Come reagirà il colonnello Unghiute alla morte del suo sciamano preferito? Si vendicherà senza alcun motivo con la comunità di polli della fabbrica? E che cosa faranno Cappa e Drago per evitare che questo accada? Pazientate altre 23 ore e 50 minuti, dopodiché sintonizzatevi su Radio 3 a mezzanotte per il prossimo baroccheggiante allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce. Bar numero